Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Box Garberta. Autobiografia di una vagabonda americana di Berta Thompson. Capitolo 1. Ho 30 anni adesso e da 15 sono una vagabonda, una sorella della strada. Un membro di quella strana eterogenea comunità di donne che è cresciuta tanto all'epoca della depressione. Ho sempre bazzicato strana gente, girovaghi e hobo, di ambo i sessi. Per quel che ricordo, ho sempre saputo che esistevano vagabondi, prostitute e rivoluzionari. Da piccola giocavo sui treni merci. Negli scali ferroviari i conduttori mi lasciavano salire sulla locomotiva con loro e a 12 anni avevo già viaggiato avanti e indietro da uno scalo all'altro su un vagone vuoto. Poliziotti, arresti, prigioni, manicomi e bettole hanno fatto parte della mia vita da sempre. Uomini che rubavano, donne che battevano, povere ragazze che davano i numeri, gente costretta a tagliare la corda. Magnaccia che vivevano con quattro donne, tutto mi sembrava naturale, e in questo ero identica a mia madre, per la quale non c'era nulla di terribile, di volgare, di brutto. La nostra famiglia non è mai stata sfortunata, perché non si è mai considerata tale e non ha mai conosciuto infamia, perché non si è mai vergognata di nulla. Quando mia madre cambiava marito, mi limitavo a prenderne atto, e quando mi pizzicarono la prima volta a viaggiare di frodo su un carro merci, non me ne stupii. Molti degli uomini e delle donne che avevo conosciuto erano stati arrestati per lo stesso motivo. Nel mondo in cui vivevo, essere arrestati era all'ordine del giorno. Quando ero piccola, mia madre era finita in gattabuia, perché non aveva voluto sposare mio padre. Da allora ci è capitato spesso di saltare un pasto o due, o magari anche una mezza dozzina di pasti, ma non ne abbiamo mai fatto una tragedia. Ho sempre vissuto tra gente sola e affamata. Mia madre non era esattamente ciò che si potrebbe definire una santa. Lei stessa era la prima ad ammetterlo, ma molti, compresa la polizia, l'accusavano di essere una poco di buono. Su questo mia madre non era d'accordo. E dal modo in cui teneva alta la testa quando rispondeva ai suoi detrattori, capivo che aveva ragione. L'ho amata profondamente, sempre, fino al giorno della sua morte. Mi piace ricordarla. Il suo esempio, la sua influenza, i suoi sacrifici, negò sempre di averne fatti per i figli. Dimostrano che anche lei ci volle bene, che fu una donna dotata di raro coraggio e a suo modo di nobili principi. Se risalgo indietro il più possibile con la memoria, la vedo intenta a cucinare per gli operai di una squadra di manutenzione in un campo non lontano da Deadwood, nel South Dakota. L'uomo che allora chiamavo papà comandava la squadra che posava i binari per la Northwestern. Ero la maggiore dei quattro figli di mia madre e nessuno dei quattro aveva lo stesso padre. Obo, obo, da dove vieni? È stata la prima canzone che ho imparato. C'erano molti vagabondi sulla ferrovia e sulle strade e anche qualche donna. L'altro giorno ho letto un articolo in cui si diceva che oggi le donne vagabonde sono molte di più, addirittura una ogni 20 uomini. Non so quante fossero in percentuale all'epoca in cui ero ragazza, ma ho un ricordo molto vivo di alcune di loro, forse proprio perché erano poche. Quest'anno ho sentito un discorso di Harry Hopkins, amministratore dell'assistenza pubblica. Diceva che negli Stati Uniti ci sono 6.800 donne senza fissa dimora. È un dato fornito dai ricoveri e dagli uffici governativi che si occupano dei vagabondi. Ma in realtà le donne che viaggiano liberamente per tutto il paese con l'autostop sui treni merci e per le strade devono essere almeno il doppio. Ciò significa che le sorelle della strada, ci chiamano gli uomini, sono circa 3.600. Non c'è da stupirsi che si scrivano libri su di noi. Ho trascorso l'infanzia in piena libertà, sempre in mezzo agli uomini e alle donne che vagavano sulle strade. Non ho avuto bambole e giocattoli, ma in compenso non mi sono mancate le emozioni. Vivevamo accanto alla ferrovia, nell'area dei binari di raccordo, tra vaste alture e gole rocciose. Nuotavamo e ci lavavamo nel fiume. Ho imparato a leggere, sillabando le parole sulle fiancate dei carri merci. Ho appreso i primi rudimenti di geografia chiedendo agli uomini di raccontarmi dei villaggi e delle città, i cui nomi erano scritti con il gesso sui vagoni. Ho imparato i numeri contando le lunghe file di carri e di treni merci. A quanto ricordo, da bambina nessuno mi raccontava mai fiabe. Le storie che mi emozionavano e di cui conservo ancora memoria sono quelle degli operai della ferrovia, dei vagabondi e dei viaggi sui vagoni ciechi per fare la stagione nei campi di grano del Minnesota. E poi i racconti mozzafiato delle corse con le slitte in Alaska, delle retate a San Francisco e delle smarciazzate da ubriachi nelle bettole di New Orleans. Alcuni degli uomini della squadra avevano portato appresso la famiglia. Metà dei bambini che vivevano al campo si vantavano di aver avuto come culla un carrello di servizio. Per giocare usavamo tutta quella straordinaria miscellanea di oggetti che si può trovare in uno scalo ferroviario. Costruivamo capanne con le traversine, così grandi che per sollevarne una dovevamo essere in quattro. Inventavamo giochi da farsi lungo la ferrovia. Appoggiavamo due spilli in croce sui binari e aspettavamo che le locomotive li schiacciassero trasformandoli in un minuscolo paio di forbici. Giocavamo con le pale e i picconi degli operai e imparavamo ad usarli. E ci mettevamo in fila per salutare cerimoniosamente i treni passeggeri che ci sfrecciavano davanti con grande fragore. Le bambine vestivano esattamente come i maschi, per lo più con tute da operaio smesse dagli adulti. Questi ultimi non si occupavano molto di noi, badavano che avessimo qualcosa da mangiare e un posto per dormire. E si preoccupavano che svolgessimo i pochi compiti che ci erano assegnati. Ma a nessuno sarebbe venuto mai in mente di parlare in modo diverso quando noi eravamo presenti. Gli uomini lavoravano sodo e le donne sgobbavano anche più di loro. Mia madre era sempre occupata a far da mangiare, a servire in tavola o a pulire, e insegnò a me e alle altre ragazze a cucinare e a smacchiare e lavare i vestiti degli uomini. Berta diceva, per fare felici gli uomini basta tenerli puliti, nutrirli e amarli un poco. Sono come neonati, hanno bisogno di qualcuno che si prenda cura di loro, insegna loro a dipendere da te, ma non permettere che ti facciano schiava. Mia madre era una bella donna, bionda, con le spalle dritte, un seno prosperoso e occhi penetranti, grigi come l'acciaio. Soprattutto quando parlava si illuminava tutta e diventava estremamente attraente. Era il tipo di donna che si prodiga per chiunque e tutti la chiamavano Mamma Thompson. Anche quando era ancora così giovane che tutti i vagabondi e gli altri, non meno di loro, cercavano di portarsela a letto. Suo padre, Moses Thompson, un pioniere del Kansas, aveva lottato per tutta la vita in difesa degli oppressi. Era stato abolizionista. Ancora adolescente aveva lavorato con John Brown e aveva combattuto nella guerra civile. In seguito era stato tra i primi a patrocinare la causa dell'emancipazione femminile e a Valley Forge, nel Kansas, aveva pubblicato un piccolo giornale, The Women's Emancipator. sul quale aveva rivendicato il diritto delle donne al voto e alla libertà dai vincoli matrimoniali. Negli anni Ottanta era stato membro del comitato che aveva organizzato il famoso raduno in favore del libero amore a Worcester, nel Massachusetts. Era stato in prigione 3 volte. 2 volte perché aveva distribuito tramite posta del materiale illustrativo sul controllo delle nascite. Le autorità federali lo consideravano materiale osceno. E 1 volta perché aveva confessato di aver dissuaso sua figlia, mia madre, dallo sposare il padre della sua bambina. All'epoca in cui mia madre aveva 20 anni, il nonno abitava ancora nella sua fattoria e curava la pubblicazione del suo giornale. Un giorno ricevette la visita di un suo corrispondente epistolare, Walker C. Smith, un uomo di 40 anni, attivo diffusore del libero pensiero e delle teorie eugenetiche, che stava compiendo un viaggio nell'Ovest. L'ospite si trattenne per qualche tempo alla fattoria e in capo a 1 settimana divenne l'amante di mia madre. Il nonno lo sapeva e convinse la mamma a non sposarsi. All'ultimo mese di gravidanza i vicini cominciarono a mormorare e 5 giorni dopo la mia nascita il pastore, lo sceriffo e 3 altri propri cittadini si recarono a casa del nonno e gli chiesero senza mezzi termini se mia madre fosse sposata o intendesse sposarsi. «No, mia figlia non è sposata», disse loro il nonno. «Ma c'è di più, non ha alcuna intenzione di maritarsi. Lei e Smith si amano e hanno avuto una bambina, perché la desideravano. Sono entrambi intelligenti e sani e questo è tutto ciò di cui un figlio ha bisogno dai genitori». Qualcuno sporse denuncia e ottenne un mandato d'arresto per tutta la famiglia che 2 settimane più tardi comparve in giudizio dinanzi al tribunale della contea. Mia madre e mio padre furono condannati a 6 mesi di prigione. Il nonno avrebbe dovuto pagare un'ammenda di $100 e le spese processuali, ma rifiutò di farlo. Così anche lui finì in galera. Tuttavia il carcere non pesò a nessuno dei 3. Il nonno scrisse una serie di articoli che furono pubblicati sui giornali Liberal di New York e di Londra. Mio padre poté dedicarsi ai libri che non aveva ancora avuto il tempo di leggere. La mamma fece da cuoca e da rammendatrice ai detenuti, si prese cura di me e studiò l'esperanto e il socialismo. Quando uscimmo di prigione, i liberal e i radicali di Kansas City organizzarono un grande raduno di massa in nostro onore. Mi raccontò poi mia madre. Si era fatto un gran parlare di noi. Quella fu la tua prima apparizione in pubblico. Ti tenevo in braccio e ti sollevavo in alto, in modo che la gente ti potesse vedere. Mio padre non tornò alla fattoria con la mamma e il nonno. Nella primavera del 1906 il nonno morì e mia madre, senza un motivo particolare e in contrasto con ciò che il buon senso le suggeriva, disse poi: sposò Toby Miller, un giovane agricoltore con i capelli color della stoppa, e si trasferì in una grande fattoria nei pressi di Bismarck. Nei 2 anni che seguirono nacquero mia sorella Anna e mio fratello Frank. Ma soltanto Anna era figlia di Toby. Il padre di Frank era un medico ambulante, un certo A.H. Wright, che mia madre aveva incontrato in una fiera. Il marito della mamma, Toby, fu tollerante, sapeva di quella relazione e sapeva che Frank non era suo figlio, ma lo trattò sempre come tale. Del resto, anche con me aveva fatto lo stesso. Avevo 5 anni quando la mamma, di nuovo senza motivo plausibile di cui le sia rimasta memoria o del quale io stessa abbia qualche ricordo, attaccò i cavalli a un carro, ci caricò sopra i 3 figli e una valigia con i vestiti e si trasferì a Bismarck. Prima di sera aveva trovato lavoro come cuoca in un cantiere lì vicino. E 1 mese dopo viveva con il capo squadra, il quale diceva sempre «mia moglie e i miei figli», quando parlava di noi. 11 mesi più tardi nacque mia sorella Margaret. Mike Blake, il nostro nuovo padre, era un uomo grande e grosso, di poche parole. Con i suoi operai era autoritario, ma aveva una sorta di rispetto e di devozione per la mamma, e con noi tutti era capace di rude tenerezza. Si prese cura di noi ragazzi come se fossimo figli suoi. Lavorava duramente e beveva come una spugna, ma era sempre gentile con la mamma, anche quando era ubriaco. E se mai fu geloso, ne avrebbe avuto motivo, non lo diede assolutamente a vedere. Il periodo di vita con Mike segnò il mio carattere. C'era sicurezza nel suo modo rude e autoritario di trattare gli uomini della squadra, la mamma e noi. Sembrava che mia madre provasse un piacere selvaggio nel compiere per lui i lavori più sfibranti. Fu allora, osservandola, che m'entrò nel sangue quella voglia di cui oggi sono perfettamente cosciente, la voglia di servire gli uomini che lavorano, bevono e parlano. Il nostro carro merci ne attirava molti di uomini. Gli operai della squadra che avevano nostalgia delle loro donne e proponevano di scambiare quattro chiacchiere, ma anche molti vagabondi, sporchi e con i piedi doloranti, allegri e insaccherati, che ci facevano conoscere un modo di vita spensierato, distaccato dal resto del mondo. C'erano poche donne tra gli obo a quell'epoca. Le uniche due che ricordo assomigliavano un po' a mia madre, nel modo che avevano di esprimere con orgoglio le loro idee, tenendo la testa alta e nel modo in cui sapevano raccontare una barzelletta o parlare senza imbarazzo degli uomini con cui andavano, con cui vivevano e che poi lasciavano. Una volta ne vidi una, con un maglione nero tutto impolverato e una tuta a righe, saltare su un merci che si era fermato al nostro scambio per agganciare un carro vuoto e poi partirsene dal nostro campo, acquattata sulle aste, accennando con la mano un saluto a mia madre sulla soglia di casa e agli uomini della squadra che la guardavano stupefatti con le pale a mezz'aria. Pochi minuti prima l'avevo vista impacchettare le sue cose sul tavolo di casa nostra. Aveva con sé un libro, era stata a Detroit. Diceva di avere un figlio a Memphis, andava a parlare a un raduno degli IWW sulla costa. Lei e la mamma avevano riso assieme, pensando che là sotto, sulle aste, gli uomini non avrebbero potuto correrle appresso. Io sapevo che aveva trascorso un paio di notti nelle baracche degli uomini. Anche la mamma lo sapeva, e la cosa non ci dava il minimo pensiero. Ma l'espressione che gli si era dipinta in volto mentre parlava di andare all'ovest e la sicurezza con cui si era infilata sotto quel carro merci avevano infiammato il mio animo fanciullesco. In quel modo era facile girare il mondo, anche per le donne. Non ci avevo mai pensato. Ricordo anche un'altra donna, più vecchia e con un'aria più malconcia, che viaggiava con tutto un gruppo di uomini e che insieme ai suoi compari saltò giù da un carro vuoto un giorno che un merci rallentò alla nostra curva. Pochi mesi prima, durante il viaggio di andata, uno di quel gruppo aveva mangiato dalla mamma. Gli uomini trattavano la loro compagna di viaggio come se fosse un maschio. Lei, invece, portava la sottana. Andò a prendersi l'acqua e chiese in prestito alla mamma un pezzo di sapone per lavare la sua biancheria e qualche camicia degli uomini. Fumava sigarette che si arrotolava da sola. Quella era una cosa che mi interessava. Mia madre invece non era mai stata attratta dal fumo. Non ricordo più se la donna stava andando da qualche parte a trovare un uomo oppure se ne aveva lasciato uno da cui stava fuggendo. Che stesse facendo l'una cosa o l'altra mi sembrava naturale, ma non importante. Assai più importante per lei e per i vagabondi con i quali viaggiava erano il cibo, un posto in cui lavare le proprie cose, le colline che avevano attraversato oppure un'idea che qualcuno aveva dato loro in un altro campo. Quella nostra vita accanto alla ferrovia mi piaceva, eppure non ricordo di aver sofferto né di aver provato rimpianto all'età di 8 anni quando la mamma piantò Mike e i carri e ci portò a Aberdeen, dove aprì una pensione. I clienti erano soprattutto ferrovieri, teatranti e artisti girovaghi, tutta gente a cui non piaceva frequentare gli alberghi. Avevamo sempre anche sindacalisti, scioperanti e radicali. Praticamente tutti gli uomo che passavano per Aberdeen si fermavano da noi a lavarsi e a mangiare un boccone. Spesso dormivano nella grande stalla. Quando un uomo bussava alla porta di servizio ed esordiva dicendo «Signora, non potreste?» mia madre ribatteva seccamente «Sei un vagabondo di professione, solo i veterani della strada mi chiamano signora». Ma non rifiutava mai di dar loro da mangiare e di scambiare 4 chiacchiere. La nostra pensione era sempre piena di questo genere di manovali della ferrovia e di militanti degli IWW. Ogni sera si discuteva di sesso, di scioperi, di socialismo. Tutti gli agitatori venivano da noi. Più tardi seppi che quell'anno la fama di mamma Thompson si era diffusa da costa a costa fra i radicali e i vagabondi. Di tanto in tanto capitava una donna vagabonda, ma a quei tempi ce n'erano ancora poche, tanto che la loro apparizione suscitava una certa curiosità persino tra i loro stessi compagni. Erano quasi sempre sole, talvolta viaggiavano in coppia, ma quasi mai con un uomo. Alcune facevano l'autostop, a quell'epoca non c'erano molte automobili. E le autostoppiste raccontavano di folli eccitanti corse attraverso la praterie in compagnia di autisti sconosciuti. Spiegavano che viaggiando da sole era più facile ottenere passaggi dagli uomini e trovare cibo, riparo e qualche soldo di tanto in tanto. La mia impressione è che le donne sulla strada a quei tempi fossero per la maggior parte agitatrici. Portavano i capelli tagliati come maschi, ma più lunghi. Parlavano con foga e spronavano gli uomini ad andare a San Francisco o in qualche altro luogo, dove esse stesse si stavano recando per prendere parte a un raduno. Ogni tanto ne capitava qualcuna che sembrava vagabondare senza uno scopo preciso, come fanno oggi centinaia di donne, la cui unica meta è una città di cui hanno sentito parlare o che è piaciuto loro durante un viaggio precedente. Mia madre le accoglieva tutte, senza distinzione. Da allora mi sono chiesta spesso che cosa spinga le donne ad andarsene da casa e a mettersi per la strada. Ho conosciuto che le motivazioni più frequenti sono di tipo economico e che la maggior parte delle donne vagabonde proviene da famiglie disgregate o povere. Queste donne cercano di fuggire dalla realtà di un ambiente miserabile e opprimente. Altre scappano perché non riescono a esprimersi nell'ambito familiare o perché non tollerano la disciplina imposta dai genitori. Alcune si mettono in viaggio per raggiungere parenti lontani o perché sognano avventure amorose. Ciò che spinge a partire può essere la monotonia della vita in una piccola città o in una fattoria, resa ancora più insopportabile dai lunghi periodi nei quali il clima è sempre uguale, oppure il desiderio di possedere vestiti più belli. Ma alcune sono prese semplicemente dalla smania di viaggiare. Per soddisfarla, le donne ricche possono darsi al turismo e girare il mondo, le altre, quelle che non hanno soldi, si danno al vagabondaggio. Alcune delle donne che conobbi a Aberdeen appartenevano a quest'ultima categoria, credo, e anch'io finii per farne parte, quando mi misi per la strada. Come loro ero in cerca di libertà e di avventura, e forse anche di qualcos'altro, ma non fu mai la noia a farmi provare il desiderio di andarmene da casa. Per 2 anni, o poco più, Ena e io frequentavamo le scuole pubbliche di Aberdeen. Non ne ricordo molto, andavamo anche alla scuola domenicale e prendevamo parte a tutte le riunioni evangeliche e di qualsiasi altro genere che si svolgevano in città. Giocavamo con molti altri ragazzi che come noi erano sempre in giro. Quando veniva qualcuno a parlare, la mamma ci portava sempre a sentirlo e, citando il nonno, sentenziava: più si ascolta, più si impara e più si è in grado di pensare con la propria testa. Ad Aberdeen c'era la cosiddetta fila, un gruppo di case di tolleranza appena fuori dai confini della città. Ci lavoravano 15 ragazze. Non era consentito loro di girare per la città, neppure per fare acquisti nei negozi. Dovevano andare direttamente dallo scalo ferroviario ai locali. La polizia le teneva sotto stretto controllo, ma permetteva loro di frequentare la nostra pensione. Ci venivano a mangiare. Alcuni dei loro amanti e protettori alloggiavano da noi. Ogni tanto le ragazze mi portavano con loro nei locali a curiosare. Quelle visite mi affascinavano. Imparai rapidamente le tecniche di approccio che le prostitute usavano con i clienti. Immagino che vi scandalizzerei se dicessi di non aver mai provato per esse il minimo disgusto. Per conto mio si trattava di normalissime transazioni d'affari, né più né meno. La mamma non aveva nulla in contrario a che andassi a far visita alle ragazze. Non le importava che parlassero liberamente in mia presenza. Accettava i loro discorsi così come ascoltava donne e uomini che raccontavano delle riunioni operaie a Birmingham e dei vagabondaggi attraverso il paese per andare a raccogliere le mele nell'Idaho. Forse vi sembrerò cattiva, irrispettosa e sleale perché dico queste cose di mia madre. Ma se il racconto della mia vita e delle mie influenze che l'hanno plasmata deve essere sincero, posso solo iniziarlo come ho fatto, parlando di lei. Libri ribelli. Libri ribelli.